Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci sono canzoni che prima ancora di cambiare la storia della musica hanno cambiato la storia del cinema. La melodia che sentite in sottofondo non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni. Può darsi che qualcuno non sappia che il pezzo si intitola You Can Leave Your Hat On, che in italiano suona più o meno come Il cappello puoi anche tenertelo. Può darsi che qualcun altro non sappia che a cantarlo è l'inglese Joe Cocker, una delle voci più ruvide e graffianti degli ultimi 40 anni di storia della musica. Di certo però tutti, o quasi tutti, sanno perfettamente che questa è la colonna sonora di un celeberrimo spogliarello. Come scordare la silhouette di Kim Basinger che danza in controluce per la gioia degli occhi di Mickey Rourke in 9 settimane e mezzo. Ogni volta che ti incontro tu... Io cosa? Mi sorridi o sbaglio? Io ti sorrido. Dall'attrazione quasi fatale tra Kim Basinger e Mickey Rourke all'eterea purezza dei sentimenti di Demi Moore, che nel sentimentalissimo Ghost non riesce proprio a farsi una ragione della scomparsa dell'amato Patrick Swayze. Quale sottofondo più adatto di Unchained Melody dei Righteous Brothers per sottolineare un amore così profondo? La sequenza della coppia di innamorati che lavora al tornio un vaso di creta si è impressa nell'immaginario collettivo almeno quanto lo spogliarello in controluce di cui si è parlato poco fa. Forse anche in virtù di questa colonna sonora perfetta, struggente, sdolcinata quanto basta. Tu mi ami, Sam. Tu che ne pensi? Perché non me lo vuoi mai dire? Ma che significa non lo vuoi mai dire? Te lo dico continuamente, sembra che io non... No, io dico ti amo, tu dici idem, non è la stessa cosa. Ti amo si dice troppo spesso, non sa più di niente. Sì, però ogni tanto fa piacere sentirselo dire. Milioni di donne in tutto il mondo hanno solidarizzato con la povera Demi Moore a causa dei suoi struggimenti per il bel Patrick Swayze. L'attore di origini texane, peraltro, aveva già iniziato a far battere i cuori delle sue fan qualche anno prima in occasione di Dirty Dancing, pellicola in cui insegnava a ballare il mambo e non solo a una sedicenne di buona famiglia. Quante ragazze dal 1987 in poi hanno sospirato sperando di trovare un giovanotto che le trattasse come il ballerino provetto Johnny Castle, pronto a sacrificare la propria reputazione pur di proteggere quella dell'amata. Nessuno può mettere bevi in un angolo. Sulle indimenticabili note di I've Had the Time of My Life, milioni di ragazzine hanno sognato e sperato che un giorno qualcuno le trascinasse su un palcoscenico e le facesse volteggiare senza sosta davanti a una platea gremita. Impossibile sentire queste note e non correre con la memoria a quella scena memorabile, alla sensazione di liberazione e di schiaffo morale all'autorità paterna che serpeggiavano tra le movenze di quei balli proibiti. Dirty Dancing non sarà certo un capolavoro della cinematografia. Eppure questa stessa sensazione deve aver contagiato i membri dell'Academy se nel 1987 hanno deciso di premiare la canzone addirittura con un Oscar. Stregare legioni di ragazzine e vincere premi prestigiosi sono certamente traguardi invidiabili, ma imbattersi nella colonna sonora perfetta, tanto perfetta da travalicare i margini dello schermo cinematografico e diventare il canto di un'intera generazione, non è certo un'impresa di tutti i giorni. Una canzone celeberrima dedicata alle gesta di una celeberrima signora. Se è vero che non esiste colonna sonora senza film, è anche vero che non esiste film senza regista. E il primo protagonista di oggi è proprio uno di loro, uno di quei brillanti signori che seduti dietro alla macchina da presa confezionano sogni a nostro uso e consumo. Il suo nome? Mike Nichols. Mike Nichols. Sono nato a Berlino, in Germania. Mio padre era russo, mia mamma tedesca. Nel 1931 Berlino non è il posto migliore dove stare se di cognome fai Peschowski. Ed è proprio all'inizio degli anni 30, agli albori della follia nazista che in breve si diffonderà come un morbo in tutta la Germania, che nasce Michael Igor Peschowski, il futuro Mike Nichols. Il padre, Pavel Nikolaevich Peschowski, è un fisico, mentre la madre, Brigitte, proviene da una famiglia che ha alle spalle una lunga tradizione di studi letterari. Entrambi sono colti, intraprendenti e di origini ebraiche, particolare non trascurabile in quegli anni tanto difficili segnati dalla depressione economica e dal crescente fermento nazionalsocialista. Il capofamiglia è già riuscito a scampare alle conseguenze della rivoluzione russa e non ha intenzione di restare in Germania con le mani in mano. Al di là dell'Oceano Atlantico c'è un paese ansioso di accogliere le menti brillanti, stanche dei guai e dei retaggi della vecchia Europa. L'America è la terra promessa. Ed è proprio lì che nel 1939 i Peschowski si trasferiscono in cerca di migliori prospettive. Mi capita di pensarci ogni tanto. Probabilmente siamo riusciti a partire 2 settimane prima che fosse troppo tardi. Siamo stati fortunati. Mi chiedo spesso come sarebbe stata la mia vita là, sempre se fossi riuscito ad averne una. Scampati quasi per miracolo alla furia del nazismo, i Peschowski approdano a New York carichi di speranze. Via il vecchio cognome e avanti con quello nuovo. Ed è così che Michael Igor Peschowski si trasforma in Mike Nichols. I neonati Nichols, dunque, si stabiliscono nel vicino stato del Connecticut, dove il padre ha modo di esercitare la professione medica, costruirsi una posizione e mandare i figli a studiare nelle scuole più prestigiose del paese, come la Dalton School di New York e la Cherry Lawn School di Stanford, Connecticut. Ma non sono tutte rose e fiori per i Nichols. Quando Mike ha solo 12 anni, il padre si ammala improvvisamente di leucemia e muore nel giro di appena qualche mese. La strada è ancora in salita, ma il giovane Mike non vuole certo darsi per vinto. Mike non è ancora sicuro di quello che vuole fare nella vita. Finito il liceo, tentando di seguire le orme del padre, si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Chicago e nel frattempo cerca di mantenersi come può facendo il bidello, il lavapiatti, il fattorino delle poste. Qualsiasi occupazione è buona pur di aiutare la madre rimasta vedova. Ma al di là dei lavoretti saltuari e delle ambizioni da medico, Mike scopre una nuova e inaspettata passione. È proprio nelle aule dell'Università di Chicago che familiarizza con la realtà delle compagnie teatrali studentesche e più in generale della recitazione. Iniziato un po' per scherzo e un po' per svago, questo nuovo interesse si rivela il veicolo perfetto per dare libero sfogo a un ingegno fervido e pungente. Per un bel pezzo sono stato davvero incapace, ma poi col tempo sono diventato piuttosto bravo. Più andavo avanti, più imparavo a capire cosa dovessi fare. E per capirlo ancora meglio, Nichols molla il college e torna a New York per studiare. Non più medicina stavolta, bensì recitazione. E non in un posto qualunque. Per ben 2 anni Mike frequenta i corsi tenuti da Lee Strasberg, celebre fondatore dell'Actor Studio. Studiare è un'ottima cosa, ma bisogna mettersi in gioco per capire se si possiede davvero la stoffa dell'attore. Ed è per questo che appena ne ha l'occasione torna a Chicago e mette alla prova il suo talento insieme ai Compass Players, il gruppo di improvvisazione teatrale che un giorno prenderà il nome di Second City e vanterà tra i suoi adepti personalità del calibro di John Belushi e Bill Murray. Ed è proprio fra gli improvvisatori della futura Second City che Mike incontra colei che diventerà la sua partner comica per eccellenza, la giovane, spiritosa e spigliata Elaine May. Mike Nichols and Elaine May. Good afternoon. Mike ed Elaine iniziano a inventarsi sketch taglienti che prendono di mira le abitudini di tutti i giorni, mettendo in risalto le idiosincrasie, le incomprensioni e la comicità involontaria che le piccole situazioni quotidiane possono generare. Non hanno paura di portare sul palcoscenico quelli che alla fine degli anni 50 erano ancora considerati dei tabù. Ed è proprio il loro mix di spregiudicatezza e innocenza a renderli così appetibili al pubblico. Un grande pubblico fin dagli esordi. Dopo essersi esibiti con successo in qualche piccolo teatro newyorkese, i due approdano immediatamente a Broadway, dove An Evening with Mike Nichols and Elaine May sbanca i botteghini per un paio d'anni. E nel 1961 si aggiudica ben 2 Grammy Awards. Dopo tanto fulminante successo, le strade dei due sono destinate a separarsi. Per Mike Nichols all'orizzonte si prospettano nuove esaltanti sfide. I'm Nichols ha passato gli ultimi anni della sua vita su un palcoscenico. Finora gli è andata benissimo, ma qualcosa in lui gli dice che quello non è il posto giusto in cui stare. Anzi, più che di posto, sarebbe corretto parlare di posizione o prospettiva. Non sul palcoscenico, non davanti ai riflettori, ma al di sopra di essi. Io sono letteralmente cascato nel mestiere del regista. È stato un incidente. Qualcuno mi ha detto, vuoi provare? E io ho provato, così. Ma fin dal primo momento mi sono detto, eccolo, questo è quello giusto. Ripensandoci mi sono accorto che forse avevo già quell'idea in testa, ma non sapevo darle un nome. Tutto quello che ho fatto con Hélène e a Chicago, tutto quello che mi interessava davvero del lavorare in teatro, aveva a che fare con la regia. Solo che ancora non lo sapevo. Al di sopra dei riflettori e dei palcoscenici, Mike Nichols trova la sua dimensione ideale. Una professione cominciata quasi per caso, seguendo il timido suggerimento di un produttore teatrale. Un mestiere che fin da subito si rivela disegnato su misura per lui, che gli permette di respirare la stessa aria degli attori, ma con una nuova consapevolezza e un nuovo senso di responsabilità. La sua prima esperienza alla regia è un trionfo. Nichols si cimenta con la commedia di Neil Simon A piedi nudi nel parco, che debutta al Biltmore Theatre di New York il 21 ottobre 1963. I numeri parlano chiaro. 1530 repliche per quasi 4 anni. E soprattutto un Tony Award, prestigiosissimo riconoscimento riservato all'ambito teatrale. Nichols è estasiato e i suoi successi a Broadway non accennano a fermarsi. Il 1965 è l'anno della strana coppia che regala a Nichols 966 repliche e un altro Tony Award. Mike ha definitivamente conquistato i palcoscenici. Ora è bene che la sfida si sposti e si rilanci altrove. La fascinazione del grande schermo è sempre stata potentissima per Mike, fin da quando si chiamava ancora Mikhail Igor Peshovsky e viveva nella Germania funestata dai prodromi del nazismo. Quando ero bambino, nonostante le difficoltà del posto in cui stavo, andavo al cinema tutte le volte che potevo. Il suo debutto come regista teatrale, in fondo, non è che una porta spalancata su un altro debutto, quello alla regia di una pellicola hollywoodiana. E per essere un principiante, Mike Nichols non si fa mancare proprio niente. Protagonisti del suo ingresso nel Gotha degli studios sono niente meno che Elizabeth Taylor e Richard Burton, una delle coppie più chiacchierate e idolatrate di Hollywood. Il film si intitola Chi ha paura di Virginia Woolf ed è tratto da una celebre pièce teatrale in scena a Broadway nel 1963. Liz Taylor, per la sua interpretazione della furibonda moglie inasprita dagli anni e dalle durezze della vita, si merita il secondo Oscar della sua carriera. Due Oscar e ben 13 nomination, una per ciascuna categoria disponibile. Non male come esordio. Ne è convinto anche un commentatore d'eccezione, l'attore Tom Hanks. Chi ha paura di Virginia Woolf, per chi non lo sapesse, fu il debutto cinematografico di Mike Nichols. Andò così bene che il film seguente glielo lasciarono fare a colori. E questo secondo film segnò un punto fermo nella storia del cinema e nella storia del costume in generale. Ebbe un'importanza che può essere riassunta con un'unica parola: plastica. Scusatemi, signor McQuire. Ben, signor McQuire, vieni un momento, Ben. Ho bisogno di parlarti. Voi ci scusate. E pensare che l'ho visto in fascia. Io non riesco a credere. Ma come passa il tempo? Voglio dirti una parola sola. Solo una parola. Sì, signora. Mi ascolti? Sì, signora. Plastica. Non credo di aver capito. L'avvenire del mondo è nella plastica. Pensaci. Ci penserai? Certamente. Bravo. D'accordo? Pensaci. Questa surreale conversazione è tratta dal secondo film di Mike Nichols, immediatamente successivo allo strepitoso successo del suo debutto cinematografico. Il produttore Lawrence Turman racconta gli albori dell'idea della pellicola, nata questa volta non a partire da uno spettacolo teatrale, ma più banalmente da un libro. Il libro fu recensito sul New York Times e mi sembrò che la storia potesse essere interessante. Allora lo lessi e trovai lo scrittore noioso dal punto di vista della sceneggiatura. Però il libro mi rimase impresso. Pagai $1,000 per i diritti, di tasca mia. Avevo un nodo alla gola perché non avevo tanti soldi. Eppure sentivo che dovevo mettere le mani su quella storia. Un buon produttore si riconosce dal fiuto. E di certo si tratta di una qualità che a Lawrence Thurman non manca. Il libro di cui stiamo parlando si intitola Il laureato e narra la storia di un giovane di buona famiglia che mal sopporta le costrizioni imposte dal suo ceto sociale e in generale dal finto perbenismo della società americana. Un personaggio complesso e affascinante che ben presto prenderà forma nei panni di un attore sconosciuto. Scopriremo di chi si tratta fra poco a Destini Incrociati. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Destini incrociati. Destini incrociati sta seguendo da vicino la carriera di Mike Nichols, regista che nel 1967 sta lavorando alla sua seconda fatica sul grande schermo. Il produttore, Lawrence Thurman, lo ha ingaggiato per dirigere la trasposizione cinematografica di un romanzo di successo, Il laureato di Charles Webb. Mike Nichols, avevo già ingaggiato Mike Nichols prima ancora che facesse Virginia Woolf. Mi piaceva molto quel che aveva fatto a Broadway, mi aveva colpito il suo lavoro nello spettacolo A piedi nudi nel parco. Gli mandai il libro e lui mi disse che gli piaceva. Decidemmo di fare l'impresa, subito. La vicenda narrata nel libro è indubbiamente interessante. Si tratta di un vivido squarcio sulla vita di Benjamin Braddock, 21enne americano di buona famiglia che una volta terminati gli studi e scoperchiato l'horror vacui della vita adulta, prende tempo scorazzando su una spider e lasciandosi irretire da un'affascinante, furba e disperata amica di famiglia, la signora Robinson, per l'appunto. Per interpretare il protagonista, che nel libro è descritto come il classico rampollo di una dinastia di WASP, acronimo che sta per White Anglo-Saxon Protestant, ovvero bianchi, di origine anglosassone e di fede protestante, ci vorrebbe un attore alto 1,80 m, atletico, biondo e con gli occhi azzurri. Ma il regista e il suo entourage si sono focalizzati invece su un tipo completamente diverso. Il loro bersaglio è un ragazzo basso, moro, presentatosi al casting con aria vagamente spaurita. Il suo nome è Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Ci furono 6 provini, tutti con attori da noi ammirati. Conoscevamo tutti meglio di Dustin. Probabilmente io ero l'unico ad aver mai visto Dustin recitare in teatro. Dai provini si vide chiaramente che Dustin era interessante, ma il nostro dilemma era che ci eravamo immaginati questo personaggio, e anche gli altri, come tipici sudcaliforniani, alti e biondi. Gli interpreti ideali, una volta conclusa la sceneggiatura, erano sembrati Robert Redford, Candice Bergen, nei ruoli della madre e del padre, Ronald Reagan e Doris Day. Tutti biondi e sani, tutti tipi da surf. Volevamo una famiglia di surfisti, ecco. E ci piomba i provini Dustin, che non è certo un tipo da surf. Per questo trovammo subito una spiegazione. Lui sarà una specie di intoppo genetico. Doris Day e Ronald Reagan hanno avuto un figlio deficiente. Lo sceneggiatore Buck Henry ne è convinto. Deficiente o meno, il talento di Dustin Hoffman sbaraglia la concorrenza e convince tutti a puntare su di lui, nonostante le sue caratteristiche fisiche siano tutto il contrario di quelle del personaggio di riferimento. Eravamo tutti presenti alle prove di lettura e ai provini e capimmo subito che Dustin era quello giusto. Non puoi veramente sapere se questo sia il lavoro giusto per te. Nessuno lo sa. La maggior parte degli attori di fatto non lavora. Non c'è abbastanza lavoro per tutti. Credo che il segreto sia non vedere l'ingaggio come un traguardo necessario. Lavorare non è il tuo obiettivo. Il tuo obiettivo è studiare recitazione, migliorarti sempre di più. Se poi nel frattempo trovi anche degli ingaggi, wow, è fantastico. Ma non devi stare lì ad aspettarli. Prima di approdare ai casting per la parte di Benjamin Braddock, Dustin Hoffman ne ha viste di tutti i colori. È la prima occasione fortunata dopo una serie pressoché infinita di delusioni. Dura la vita di un aspirante attore. Yeah, it's a hard life to be true lovers. Originario di Los Angeles, la Mecca incontrastata del cinema, Hoffman inizia a recitare alla scuola di teatro del Pasadena Playhouse, famoso teatro della cittadina californiana. Quando il suo amico e collega Gene Hackman decide di trasferirsi a New York in cerca di miglior fortuna, Dustin non può fare a meno di seguirlo. Nell'appartamento in cui vivevo a New York c'era un lungo corridoio e nella stanza a fianco alla mia viveva Gene Hackman. C'erano altri attori, eravamo una famiglia di attori senza speranze. Gene Hackman spostava mobili su e giù per i palazzi, io lavoravo come inserviente in un ospedale. Litigavamo molto per stabilire quale insegnante di recitazione fosse migliore, se il mio o il suo. La carriera attoriale di entrambi stenta a decollare. Hackman si improvvisa traslocatore. Hoffman fa di più, destreggiandosi fra una serie di impieghi improbabili. Guardarobiere in un ristorante, impiegato negli uffici delle pagine gialle, perfino intrecciatore di collane hawaiane. Anche a teatro i suoi ruoli non sono da meno. Il più celebre resta quello di un travestito tedesco zoppo in una pièce in scena in un teatro minore di Broadway. E se è riuscito a essere credibile in quella parte, perché non dovrebbe esserlo in quella di un americano biondo e rampante? Sembrava un testo di Pinter recitato da Charlie Chaplin, non lo so. Mi piaceva molto, era comico e serio allo stesso tempo. Il produttore Lawrence Turman è convinto che il tocco apparentemente stonato di Dustin Hoffman sia quello che ci vuole per regalare al film la peculiare atmosfera che contribuisce a renderlo indimenticabile. La surreale tensione erotica che si crea tra Benjamin e Mrs. Robinson è allo stesso tempo giocosa e divertita. E il kitsch dei divani zebrati di casa Robinson è meravigliosamente stemperato dal candore dell'imbarazzo del giovane e inesperto Braddock, interpretato dallo strepitoso trasformista Dustin Hoffman. Posso farti una domanda? Che cosa pensi di me? In che senso? Mi conosci da quando sei nato, te la sarei fatta un'opinione. Beh, ho sempre pensato che lei era una cara persona. Sapevi che sono un'alcolizzata? Cosa? Lo sapevi questo? Senta, forse è meglio che vada. Siediti, Benjamin. Signora Robinson, scusi se glielo dico, ma questa conversazione sta diventando un po' strana. Senta, suo marito ormai sarà qui da un momento all'altro. No. Cosa? Mio marito tornerà tardissimo. Dovranno passare molte ore. Oh, mio Dio. Pardon? Oh, no, signora Robinson, no. No, cosa? Signora, lei non... Non si sarà aspettata... Cosa? Non avrà mica pensato che facessi una cosa simile. Quale cosa? Quello che pensa. Che penso? Dimmelo. Beh, insomma, via, signora Robinson. Noi siamo qui, lei mi ha portato in casa sua, mi dà da bere e mette un disco e ora comincia a mettermi a parte della sua vita privata, mi dice che suo marito torna tardi. E allora? Signora Robinson, lei sta tentando di sedurmi. Il laureato esce nelle sale nel dicembre del 1967 e si aggiudica il primato di film di maggior successo dell'intero 1968. Incassa 50 milioni di dollari, una cifra che oggi, fatti i conti, si aggirerebbe sui 175 milioni. Vale un Oscar a Mike Nichols come miglior regista, più svariati altri riconoscimenti da parte del Directors Guild of America e dal New York Film Critics. La colonna sonora, composta da Paul Simon e cantata da Simon e Garfunkel, vince il disco d'oro nel 1968. All'uscita della pellicola, il singolo Mrs. Robinson resta per 4 settimane al numero 1 delle classifiche di vendita americane e si aggiudica ben 3 Grammy nel 1968. Dustin Hoffman riceve dall'Academy la sua prima nomination come migliore attore e protagonista. E pensare che non credeva nemmeno di aver superato i provini. Dopo il film ci fu un'ovazione gigantesca. Quando tutti erano già fuori, uscimmo anche noi. C'era una donna di nome Harris, una giornalista, una columnist di Hollywood, un vero mito, non so se lavora ancora. Aveva un bastone perché non camminava bene, perciò era ancora a metà delle scale quando arrivammo. Il cinema era ormai vuoto. Quando le passammo davanti lei mi riconobbe. So che sembra un film quel che sto raccontando, ma è tutto vero. Non c'era nessun altro lì, mi sentivo un po' strano. Mi guardò e disse... Lei è il giovane del film. E mi indicò. Le dissi, sì, sono io. E lei disse, la sua vita non sarà mai più come prima. Solo questo. Ha puntato il dito verso di me e ha decretato che la mia vita sarebbe cambiata per sempre. Un piccolo attore sta diventando una stella del firmamento hollywoodiano. Un grande regista, abituato più al plauso della critica che a quello del pubblico, sta stregando le platee di tutta America e di mezzo mondo. Il tutto sulle note di una colonna sonora indimenticabile. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Destini incrociati. A Destini incrociati assistiamo all'esplosione della carriera di Dustin Hoffman, lanciato dal regista Mike Nichols nella sua seconda e fortunatissima pellicola Il Laureato. Un successo travolgente di pubblico e di critica e un trampolino di lancio perfetto per la carriera di un attore che stentava a decollare. And so I thank you. Io non finirò mai di ringraziarti per aver scelto questo attore 29enne, basso, sconosciuto e con un naso troppo grosso per interpretare Benjamin Braddock. Hoffman è fortemente voluto dallo stesso Nichols, che sembra non curarsi affatto delle indicazioni fornite dall'autore del romanzo originale riguardo al suo aitante protagonista. È lo stesso Hoffman a ricordare tra il divertito e lo sconvolto l'estenuante sessione di trucco e parrucco che precede il suo ingresso sul set. Mi sono seduto e hanno cominciato a truccarmi. Sono andati avanti per più di 2 ore. Non fecero nulla di strano, niente toupée o roba del genere. Cercarono solo di fare del loro meglio con ciò che avevano a disposizione. Poi entrò Nichols e mi guardò. Era molto gentile, ma disse senza nascondere i suoi dubbi: potresti fare qualcosa per le sue sopracciglia? Allora me le sfoltirono. Non mi era mai capitato. Non mi piacque per niente, ma loro lo fecero comunque. Poi disse: cosa facciamo con quel naso? E iniziò a disegnarci sopra delle ombreggiature. Poi se la presero col mio collo, è troppo grosso. E io ho la 42 di girocollo. Con un dolce vita e un'altra pettinatura sembrerebbe più snello. È stata una delle esperienze più umilianti della mia vita. Anche se non era intenzionale. Anziché fargli vestire i panni di un giovane aitante e sicuro di sé, Nichols preferisce giocare sulle caratteristiche fisiche di Hoffman, lasciando che l'attore regali al personaggio di Benjamin Braddock una gamma di sfumature inaspettate e sorprendenti. L'identificazione con un ragazzo normale, assai più normale di uno spilungone di 1,80 m biondo e con gli occhi azzurri, è pressoché immediata. I giovani di tutta America vivono sulla loro pelle la ribellione di Benjamin Braddock e si appassionano e fanno il tifo per lui. Ed è da quando sono tornato che mi sento così. È come un continuo impulso ad essere villano, mi capisci? Io capisco. Vedi, è come se partecipassi a un gioco con delle regole che per me non hanno senso. Perché le ha fatte della gente sbagliata? No. Anzi, non le fa nessuno, sembra che si facciano da se stessi. Le regole del gioco non vanno bene a Benjamin, ma certamente vanno bene a Dustin. Finalmente non è più uno dei tanti attori che affollano invano i corsi di recitazione. Facevo la fila per il sussidio di disoccupazione, quando improvvisamente qualcuno mi fotografò. Era un fotografo, 1, 2, 3 scatti, io non ne sapevo nulla. Chiesi per chi lavora, lui disse per Life Magazine e se ne andò. Quando uscì la rivista c'era dentro la mia foto, il laureato che faceva la fila per il sussidio di disoccupazione. Da lì in poi ho smesso di andarci. Da lì in poi, altro che sussidio di disoccupazione. Dopo la prima nomination all'Oscar e il plauso incondizionato del pubblico e della critica, la carriera di Dustin Hoffman non può che prendere il volo. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Da Il Laureato in poi, Dustin Hoffman viene letteralmente sommerso di offerte. Da un uomo da marciapiede a piccolo grande uomo, dal maratoneta all'intrepido giornalista di Tutti gli uomini del presidente, che insieme a Robert Redford smaschera lo scandalo nixoniano del Watergate, fino al coraggioso padre divorziato di Kramer contro Kramer, che gli vale la quarta nomination all'Oscar. e non solo quella. And the winner is Dustin Hoffman in Crime Against Benché l'occasione sia più che ufficiale, Hoffman non perde il suo piglio da attore in controtendenza. Thank you. Grazie. He has no genitalia and he's holding a sword. È senza genitali e tiene in mano una spada. I'd like to thank my parents. Vorrei ringraziare i miei genitori per non aver usato anticoncezionali. E per confermare la sua straordinaria capacità di stupire e confondere le platee che gli stanno davanti, nel 1988 Hoffman veste i panni di Raymond Babbitt, l'autistico fratello del rampante Tom Cruise in Rain Man, l'uomo della pioggia. Non ho le mie mutande. Cosa? Assolutamente non ho addosso le mie mutande. Ma che stai dicendo? Se te ne ho dato un paio delle mie stamattina. Quelle non sono le mie mutande. Ti avevo detto di andare in bagno a metterle, dove sono? Certo, sono nella tasca della mia giacca. Dove? Guarda. Sono troppo strette. Non le voglio indietro. Queste non sono boxer, i miei invece sono boxer. Che differenza fa? Sono sempre mutande. Questi sono NS32. NS32. Sui miei boxer invece c'è scritto il mio nome, Raymond. Va bene, d'accordo. Appena troviamo un negozio, compriamo un paio di boxer. Certo, io compro i miei boxer da Kmart a Cincinnati. Noi non torniamo a Cincinnati, Ray. Cerca di smettere. 400 Oak Street. Non torniamo a Cincinnati. Non c'è bisogno di andare a Cincinnati per comprare i boxer. Si trova in Oak e Burnett a Cincinnati. Che ti ho detto, Ray? C'è Kmart. Cosa? Ma tu mi senti? Lo so che mi senti. I miei boxer col mio nome. Non mi freghi più con le tue cazzate. Le tue mutande sono troppo strette. Ray, non hai sentito che cosa ho detto, cazzo? L'interpretazione dell'autistico Ray gli vale il meritatissimo secondo premio Oscar. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile se Mike Nichols non avesse creduto così tanto nelle sue potenzialità. Senza il laureato, di fatto, Rain Man non sarebbe mai esistito. Un film davvero epocale, secondo Tom Hanks. Un film che ha veramente catturato tutta quella gamma di sensazioni e sentimenti di una nuova generazione. La loro confusione, il loro isolamento. È stato un film, anzi no, un evento seminale nella storia del nostro paese. Non diverso dall'aver sentito i Beatles per la prima volta o ricordarsi che cosa si stava facendo quando Neil Armstrong metteva piede sulla Luna. E mentre Neil Armstrong e l'equipaggio dell'Apollo 11 si preparavano a infilare la tuta da astronauta, la strepitosa Anne Bancroft si sfilava le autoreggenti dando vita alla controversa e conturbante signora Robinson, lasciando l'America col fiato sospeso. Io e Nichols abbiamo parlato recentemente di un sequel. Io ho un'idea stupenda per fare un sequel. Io sono ancora sposato con Catherine. Anne Bancroft viene a pranzo una o due volte la settimana. È tuttora un'amica di famiglia. Il nostro matrimonio non funziona più alla perfezione. Abbiamo due figli adulti e uno che forse è stato un incidente che ha 16-17 anni. Uno dei miei figli grandi ha la ragazza. E io ho una relazione con la ragazza di mio figlio. Nichols, quando gli ho detto questa, ha riso e ha detto: «Allora diventi tu Mr. Robinson». E io gli ho risposto: «Certo». Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.